taking this time to tell you just how I feel about you and me. Lately we've been like strangers, and things are what they used to be. I never thought our differences would ever get in our way. Now you think it's best to leave. Teodrasia, sangria, re de provitoria. Grazie a tutti, ringraziamo ovviamente innanzitutto l'ex parignano radicale o l'ex radicale parignano di essere di nuovo fra noi e di non averci fatto mancare il suo contributo. Eravamo noi già in debito d'ossigeno già da un po' e il suo intervento è stato miracolistico. Grazie a Walter per la regia e grazie a tutti voi per l'attenzione. L'appuntamento è rinnovato per martedì prossimo. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera.